Sento sempre più addosso il peso della responsabilità di raccontare qualcosa. Il 6 ottobre dell'84, sulla stampa, Guido Ceronetti aveva raccontato, in proposito, qualcosa di sé cui vale la pena di riflettere. Aveva 14 anni, Ceronetti, portava ancora i calzoni corti e gli urgeva dentro il bisogno di fare una confessione a suo padre. Aveva riempito alcuni quaderni di una storia che, col senno di molti anni dopo, non esitava a definire completamente idiota e degna del peggior cretino. Ma doveva assolutamente dirlo a suo padre, che in quel momento stava ascoltando la radio e vabbè, glielo disse, trovò il coraggio, glielo disse: papà, ho scritto un romanzo, Anime senza sole, non è un bel titolo? Il padre lo guardò e spense la radio. Sì, il titolo è bello, gli disse, ma tu hai scritto un romanzo immorale e il mondo invece ha bisogno di tanta, tanta moralità. Oh, non ne aveva letto alcunché, ben inteso, ma per condannarlo gliene bastava l'esistenza. Io non so e non credo che il padre di Ceronetti avesse i miei stessi motivi per guardare con preoccupazione ad ogni concessione che si fa alle proprie istanze narrative. Presumibilmente in lui agiva quel radicatissimo sospetto della borghesia di una volta nei confronti di qualsiasi lavoro che non trasformasse la materia bruta o che non ne commerciasse i risultati. Un sospetto generale nei confronti dell'arte e degli artisti, no, presi come esempio massimo di parassitismo sociale. E io invece sento il peso della responsabilità di fissare paradigmi per comportamenti altrui, di dettare leggi implicite ed esplicite anche senza volerlo, di modellare e di essere a mia volta modellato nel momento in cui attingo la mia esperienza per raccontare, essere a mia volta modellato da un mondo che non mi piace, che mi sembra procuri soltanto afflizione e meschinità. È la consapevolezza di dare una mano anch'io nell'imbandire un banchetto ideologico nell'inconsapevolezza dei commensali che mi frena. Raccontava ancora Ceronetti che anni dopo la severa censura paterna, ormai ventenne, aveva visitato alcuni riformatori della penisola e ne aveva tratto un articolo per un giornale socialista. Al suo ritorno a casa, ad articolo pubblicato, si trovò di fronte ad un anello posato sopra un bigliettino vergato dalla calligrafia di suo padre. «Dopo la tua missione di alta moralità», c'era scritto, «sei diventato degno di portare questo anello». E in fin dei conti, dico, era bastato poco. Il passaggio dal narrativo al saggistico, al descrittivo di una presunta realtà e dall'espressione dei giudizi conseguenti aveva garantito per un processo di valorizzazione tutt'affatto diverso. Tanto che la pacificazione familiare poteva un po' ancora borghesemente essere suggellata definitivamente con un anello. So, come forse sapeva anche il padre di Ceronetti, che le divisioni gerarchiche fra i vari generi letterari sono illusorie. So che tutto in fin dei conti può essere classificato come letteratura. E so che l'unico valore che davvero conta è la cura, l'amore che investo su ciò che faccio. Ma mi sembra ancora non solo possibile, ma necessario, per la gravità dei mali che ci affliggono, ricorrere alla mia forma diretta, più diretta di espressione. Privarmi della gioia dell'invenzione, o più semplicemente dire a me stesso che mi privo della gioia dell'invenzione, mi pare un bel gesto, come alleviare una sofferenza altrui.